Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione che racconta l'attualità e lo sviluppo del pensiero tenendo in considerazione tutti gli animali, e in particolare quelli non umani. È la puntata numero 568 e parleremo dei difficili progressi della scienza, di orsi e stelle del cinema, di allevamenti che forse chiudono o forse no, e di interessanti soluzioni cinesi per la convivenza fra umani e selvatici. La puntata, come al solito, sarà accompagnata dalla musica scelta da Gabriele Coco e da una ricetta pensata per noi da Gabriele Palloni. Well, pass me the whiskey, pass me the gin, pass me whatever the Sprite left in. Si torna a parlare di sperimentazione animale. Nelle settimane scorse, prima la senatrice a vita Elena Cattaneo, poi un gruppo di ricercatori, si sono rivolti a governo e Parlamento per chiedere un allentamento della normativa sull'utilizzo degli animali nella ricerca scientifica. A loro avviso i limiti previsti dalla nostra legislazione sono troppo stringenti, più rigidi rispetto a quanto previsto dalle direttive europee e andrebbero quindi rivisti, consentendo ovviamente maggiore libertà ai ricercatori a scapito degli animali. Dal canto suo, la LAV, Lega Antivivisezione, chiede al ministro della Salute Roberto Speranza di investire invece in nuove forme di ricerca, visto che al momento, scrive l'associazione animalista, prevale un modello sperimentale che fa riferimento ad approcci scientifici del secolo scorso che vanno superati nell'ottica di dare un futuro diverso al nostro paese. La LAV ricorda al ministro che lo scorso febbraio è stato approvato l'aumento a 6 milioni di euro in 3 anni per il rifinanziamento di enti pubblici di ricerca sui test alternativi e chiede che tale finanziamento sia subito attivato, in risposta, dice la LAV, anche alla situazione sanitaria di emergenza attuale che necessita di una ricerca affidabile e veloce. La senatrice Cattaneo e i ricercatori firmatari dell'appello citato poco fa sostengono al contrario che i limiti correnti rischiano di bloccare la ricerca e fanno notare che tutti i progetti di ricerca di un vaccino per il Covid-19 prevedono la sperimentazione animale, che peraltro, aggiungiamo noi, al momento è obbligatoria per legge, quindi l'affermazione è la più classica delle tautologie. Una novità è invece la ricerca in corso al prestigioso Istituto Max Planck di Berlino per la genetica molecolare, guidato dal biologo Adriano Bolondi. Grazie alle cellule staminali è stato ottenuto in provetta un simile embrione di topo, che potrebbe diventare un laboratorio vivente per testare nuovi farmaci. Il risultato di questa ricerca è stato pubblicato sulla rivista Science. Non siamo ancora ai modelli alternativi cari agli attivisti e agli scienziati animalisti, ma la ricerca, come si vede, quanto più avanza, tanto più si allontana dal cosiddetto modello animale, concepito in un'epoca ormai remota e sempre più in conflitto sia con la sensibilità diffusa circa la considerazione da attribuire agli animali, sia con la ricerca scientifica più avanzata. Su questo punto il Manifesto, nel suo inserto extraterrestre, dedicato ai temi ecologici, ha intervistato Martina Pluga, direttrice per l'Italia della Human Society International, organizzazione internazionale di protezione degli animali. Pluga Anche lei insiste sul tema delle alternative alla sperimentazione sugli animali e dice: la scienza moderna è stata in grado di mappare il genoma umano, sviluppare mini cervelli umani in laboratorio, ingegnerizzare biochip multiorgano che simulano la fisiologia umana, completi delle funzioni normali come la respirazione e il flusso sanguigno. Di fronte a queste nuove tecnologie, sempre più scienziati stanno abbandonando l'uso di test sugli animali per affidarsi ad approcci più promettenti e rilevanti per l'uomo. E la nostra organizzazione sta aiutando a fare da apripista. I nostri sforzi, conclude Pluga, sono stati determinanti in molti paesi, come in Brasile e in Corea del Sud, per vietare alle aziende di condurre sperimentazioni sugli animali se un approccio senza è disponibile. La settimana scorsa abbiamo dedicato l'intera puntata agli orsi del Trentino, con uno speciale che ha proposto, fra le altre cose, le voci di Stefania Sbarra e Barbara Nosari, in sciopero della fame dal 21 settembre scorso contro la detenzione di 3 orsi, prigionieri nel recinto del Castellera a Trento, e per nuove politiche pubbliche di convivenza con questi animali che da qualche tempo hanno ripreso a popolare il nostro arco alpino. Nei giorni scorsi, ecco la novità, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi di 2 associazioni animaliste e sospeso la cattura dell'orsa JJ4, disposta con un'ordinanza della provincia di Trento. I giudici hanno dunque stabilito che l'animale deve restare libero. JJ4 sarebbe stata la 4ª orsa detenuta al Casteller. L'ordinanza di cattura e reclusione a vita per il plantigrado era stata adottata dalla provincia dopo un incontro ravvicinato con l'animale avvenuto nel giugno scorso sul Monte Peller da parte di 2 persone. Il presidente della provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha commentato la notizia dicendo che da questo momento cessano le responsabilità della provincia in caso di esiti sgradevoli o pericolosi a seguito di ulteriori incontri con l'orsa. Il tema degli orsi è appassionante e suscita prese di posizione. Ha parlato, fra gli altri, il ministro per l'ambiente Sergio Costa, con toni ben diversi da quelli del presidente della provincia. Hanno vinto il buonsenso e la libertà, ha detto Costa. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso contro la cattura dell'orsa Gaia, come Costa chiama JJ4. Non posso che ringraziare le associazioni che portano avanti queste battaglie che noi vogliamo sostenere e per le quali noi, attraverso l'avvocatura dello Stato, ci siamo costituiti al loro fianco. Gaia è un'orsa che ha 3 cuccioli e la sua cattura sarebbe stato un enorme problema per la vita dei piccoli. Lo scontro in Trentino è in pieno svolgimento e sta assumendo una dimensione nazionale e anche internazionale. Sul tema è infatti intervenuta anche l'ex attrice Brigitte Bardot, a capo di una fondazione animalista che porta il suo nome. La mitica BB ha scritto una lettera piuttosto dura in francese a Maurizio Fugatti, per chiedere di rimettere in libertà i tre orsi rinchiusi al Casteller. La cacciatrice si dice scioccata e scandalizzata dal fatto che gli orsi catturati in Slovenia per reintrodurli in Italia nell'ambito del progetto Life Ursus, finanziato da fondi europei, ora vivano rinchiusi in un bunker elettrificato. Bardot definisce la reclusione imposta agli orsi una disumanità abietta e sostiene che se la provincia non libererà gli orsi, ciò provocherà uno scandalo globale che sarà sostenuto dai nostri numerosi partner internazionali. Brigitte Bardot, con toni, a dire la verità, piuttosto aggressivi, promette a Fugatti di non risparmiarlo in questa campagna. Pronta e stizzita la reazione di Fugatti. Brigitte Bardot ama gli orsi? Bene, la invitiamo a venirci a trovare in Trentino. Qui ne abbiamo tanti. Anche noi, dice ancora Fugatti, amiamo la natura e gli animali. Non dimentichiamo, tuttavia, che gli orsi problematici annoverano ormai molte vittime fra animali che rappresentano il sostentamento dell'agricoltura e della zootecnia in montagna. È proprio la logica di un migliore equilibrio quella che noi stiamo difendendo, consapevoli delle fatiche di chi ancora oggi cerca di resistere in montagna, presidiando e mantenendo vivo il territorio. Una fatica reale e concreta, ben lontana, e qui nelle parole di Fugatti sembra esserci un'allusione al passato di Brigitte Bardot, ben lontana dalla finzione cinematografica, dove la rappresentazione dei fatti non può corrispondere pienamente alle problematiche più autentiche. Insomma, il caso degli orsi trentini tiene ancora banco fra tribunali, discussioni, prove di forza e anche, ci pare, qualche caduta di stile nell'argomentare. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Dimostrano sia il caso trentino sia molte, moltissime altre fattispecie, la convivenza fra persone umane e animali selvatici è ancora molto problematica, anche nelle aree montane. Perciò abbiamo sempre prestato attenzione alle buone pratiche amministrative che cercano di facilitare tale convivenza. Molte di queste, per esempio, sono previste proprio dal piano Life Ursus Trentino, ma spesso sono disattese e così è più facile per tutti scivolare nella logica della contrapposizione, della demagogia, della lotta agli animali selvatici in nome di un'artificiosa idea di sicurezza. Un buon esempio di intervento conciliativo, meritevole di attenzione, arriva dalla Cina, dove sono stati costruiti numerosi tunnel e ponti, ben 140, per favorire il passaggio della fauna selvatica lungo una nuova linea ferroviaria che collega la regione autonoma dello Xinjiang e la provincia del Qinghai nella Cina nord-occidentale. I passaggi riguardano il tratto di attraversamento dell'Op Nur, una riserva naturale nazionale per cammelli selvatici. Il responsabile dell'Istituto di Progettazione Ferroviaria, il signor Wang Xinshuang, ha dichiarato che sono stati costruiti in totale 13 tunnel e 127 ponti per favorire il passaggio di animali di grossa, media e piccola taglia nella riserva, un luogo dove vivono più di 500 cammelli selvatici. La nuova linea ferroviaria ha anche evitato un'importante sorgente d'acqua per la fauna selvatica, pur dovendo affrontare investimenti supplementari, con lo scopo di garantire che la costruzione e il funzionamento della ferrovia non colpiscano tale fonte d'acqua, privando quindi gli animali di un indispensabile sostentamento. Tunnel e ponti sono dispositivi che andrebbero realizzati lungo molte strade e autostrade italiane, in modo da ridurre i rischi sia per gli animali sia per chi viaggia. È appunto una questione di buona convivenza e in fin dei conti anche una questione di civiltà. Torniamo a parlare di visoni, o meglio di allevamenti di visoni da pelliccia, quelle terribili strutture entrate nelle cronache per i casi di contagio da SARS-CoV-2 riscontrati in alcuni animali. La LAV ha condotto una investigazione riservata e diffuso un video per documentare l'uccisione di 26.000 visoni nell'allevamento di Capralba in provincia di Cremona. Gli animali, dice la LAV, sono stati uccisi con il gas e scaricati come rifiuti nei cassoni dei camion. Nell'allevamento di Capralba sono stati sterminati tutti gli animali, anche i cosiddetti riproduttori, e quindi la struttura è attualmente vuota. E tuttavia, osserva la LAV, fra pochi mesi tutto ricomincerà come prima, visto che i provvedimenti adottati dal Ministero della Salute, con la sospensione dell'allevamento di visoni fino al 28 febbraio 2021, consentono una ripresa del ciclo di allevamento, che comincia a marzo, con le prime nascite a fine aprile, ad ordinanza non più vigente. I visoni sfruttati per la produzione in Italia di pellicce sono comunque destinati a diminuire dagli attuali 66.000 a poco più di 30.000, sia perché il più grande allevamento italiano è stato svuotato per l'emergenza sanitaria, sia perché altri due allevatori hanno già dichiarato di voler cessare l'attività. Gli allevamenti italiani di visoni scenderebbero quindi da 8 a 5. Il coronavirus degli ultimi mesi ha solo accentuato un processo di dismissione cominciato ormai una decina di anni fa, se consideriamo il calo di vendite di pellicce in tutti i canali distributivi italiani. Il volume d'affari è passato da 1,6 miliardi di euro nel 2006 a poco più di 800 milioni nel 2018. La moda delle pellicce, insomma, è in declino costante. Secondo Simone Pavesi, responsabile della LAV per l'area moda Animal Free, poiché ogni singolo allevamento di visoni è un potenziale serbatoio di coronavirus, è inaccettabile che la salute pubblica venga messa a rischio per mantenere in attività queste strutture. L'unico vero vaccino, dice Pavesi, è prevenire l'insorgenza di zoonosi e, nel caso specifico, vietare definitivamente gli allevamenti di visoni. Settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni propone una delle sue mirabolanti ricette, ispirandosi sempre a una delle notizie trattate nel corso della puntata. Il suo spazio etico gastronomico è stato in questi anni e continua ad essere una fucina di idee che sono anche finite nei libri di Gabriele. Il più recente, uscito da poco, è Se vuoi essere sano, cucina vegano, oltre 300 ricette della tradizione, facili e sfiziose per mangiare ogni giorno con gusto. Questo è il chilometrico titolo e sottotitolo di questa pubblicazione, edita da Newton Compton Editore. È un prezzo davvero popolare, nemmeno 6 euro. Sentiamo che cosa ci propone questa settimana il nostro Gabriele. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. E se la puntata di oggi ci porta in Cina, rubando dal mio ultimo libro di ricette 100% vegetali, Se vuoi essere sano, cucina vegano, vi propongo una ricetta fusion che crea un ponte fra due culture, e lo si evince già dal nome. Gli ingredienti per 4 persone per l'arancina sono 250 g di riso basmati, 500 ml di acqua, 100 ml di latte di soia, un cucchiaio di succo di limone, 50 g di farina di ceci, 100 g di piselli, 100 g di carote, un cucchiaio di salsa di soia, 2 cucchiai di olio di semi di sesamo, un pizzico di curcuma in polvere, olio extravergine di oliva, pan grattato, sale e dell'olio di arachidi per friggere. Mettete il riso basmati in un colino e sciacquatelo sotto l'acqua corrente. Versate il riso in una pentola assieme a tutta l'acqua e poco sale grosso. Coprite e fate cuocere fino a quando non avrà assorbito tutta l'acqua. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare senza scoperchiare. Nel frattempo scottate in acqua leggermente salata i piselli e le carote, tagliate a quadretti piccoli. Scottatele per pochi minuti. Le verdure dovranno rimanere croccanti. Versate il succo di limone nel latte di soia e lasciate riposare per 15 minuti. Quindi utilizzate per stemperare la farina di ceci. Aggiungete un pizzico di curcuma in polvere, sale e un cucchiaino di olio extravergine. In una padella antiaderente versate la pastella di ceci e strapazzate con una forchetta. In una seconda padella con poco olio extravergine fate rosolare le carote ed i piselli e bagnate con la salsa di soia. Cuocete a fuoco vivo per pochi minuti, quindi togliete dal fuoco e unite alla pastella di ceci strapazzata. A parte, tritate il cipollotto e rosolatelo in padella con poco olio extravergine. Versate il tutto nel riso cotto. Aggiungete l'olio di sesamo crudo e mescolate bene. Formate una pallina con il basmati, schiacciatela in una mano e disponete al centro un cucchiaino di verdure saltate. Richiudete formando una pallina e passate nel pangrattato. Friggete l'arancina in olio d'arachide molto caldo fino a quando sarà ben dorata. Scolate e fate asciugare su carta per frittura. Servite calda accompagnando con salsa di soia. Con una notizia che arriva dall'Africa meridionale, in particolare dalla Namibia, paese afflitto dalla siccità. Il governo ha deciso di affrontare l'emergenza mettendo in vendita 170 elefanti vivi e lo ha fatto con un'inserzione pubblicitaria apparsa sul quotidiano New Era. I 170 elefanti sono definiti di alto valore e l'aspettativa è che si presentino presto acquirenti internazionali. Il ministro per l'ambiente, Poamba Shifeta, ha specificato che la Namibia non ha intenzione di vendere questi elefanti a qualsiasi condizione. Dobbiamo essere sicuri che il paese acquirente sia in grado di accoglierli, ha detto. D'altra parte, per esportare gli elefanti, gli acquirenti dovranno assicurarsi tutti i requisiti CITES, ossia le norme previste dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche minacciate di estinzione. Da parte nostra non possiamo che esprimere tristezza di fronte a tale notizia, al solo pensiero di questi grandi animali che nel migliore dei casi saranno costretti ad emigrare loro malgrado altrove. L'emergenza climatica si somma all'emergenza sociale, all'emergenza politica e questi sono i risultati. È tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti e Lorenzo Guadagnucci, che vi parla. L'appuntamento con la prossima puntata è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.